Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a questa ultima puntata prima di Pasqua, ma non ci sarà interruzione fino a metà giugno del nostro appuntamento con il mondo della scuola. Ritroviamo con piacere il professor Francesco Tessotto, che è dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso. Bentornato. Grazie. Dunque, con te la volta scorsa, qualche mese fa ormai, parlavamo del coordinamento delle scuole cattoliche, del lavoro che stavate facendo e ancora in corso, credo, sulla carta programmatica. Ripartiamo da lì facendo un breve abstract, come sì. si dice. Riassunto delle puntate sì, esatto. precedenti. Il coordinamento delle scuole cattoliche è l'aver messo insieme tutte le scuole cattoliche delle due diocesi, Treviso e Vittorio Veneto, per cercare di fare un lavoro insieme. Al di là delle sigle che poi uniscono le varie scuole, la FIDA e la FISM, la FICAP, eccetera. Quindi un mettere insieme le proprie forze per cercare di aiutarsi, di confrontarsi e al tempo stesso di presentarsi nel territorio con una propria identità, una propria caratterizzazione. Questa identità è la carta, è stata visualizzata, scritta nella carta programmatica, che è un documento che identifica appunto il lavoro, la realtà, le finalità della scuola cattolica. La carta programmatica è composta di varie parti, è molto snella, sono 3 paginette, ma comunque di varie parti in cui si parla dell'identità, si parla delle finalità, ma soprattutto si punta l'attenzione su che cosa può fare, su che cosa deve fare la scuola cattolica per qualificarsi, per presentarsi, per dimostrare questa sua identità, perché non basta dichiarare la propria identità, le proprie finalità, ma alla fine bisogna manifestarle sul campo, come si dice. Allora siamo partiti dall'idea e dalla convinzione che le scuole cattoliche si caratterizzino soprattutto per l'attenzione educativa. Difatti da sempre le nostre scuole hanno un progetto educativo. Però abbiamo anche riflettuto sul fatto che il progetto educativo di solito viene declinato per gli aspetti relazionali e quindi l'accoglienza, il dialogo, l'attenzione alla persona. Però non sempre questo si traduce in azione didattica quotidiana, comunque lasciando in secondo piano un aspetto che è fondamentale e sostanziale per la scuola cattolica, che è scuola. E quindi ha il compito di istruire, ha il compito di far progredire i ragazzi in conoscenze, in competenze. Ma allora che cosa distingue la scuola cattolica dalla scuola in generale? Noi abbiamo ritenuto che fosse importante cercare di tradurre l'attenzione educativa nella pratica didattica, cioè adottare una didattica che sia attenta alla relazione personale. E questa, diciamo l'uovo di Colombo, la quadratura del cerchio, insomma, questa si tratta quindi della cosiddetta didattica personalizzata, che è una didattica che è allo studio adesso. Per esempio un esperto in didattica personalizzata è il professor Pierpaolo Triani dell'Università Cattolica, esperto professore di metodologia didattica, che appunto sta curando la didattica personalizzata e per esempio è venuto a Treviso più volte proprio per parlare ai rappresentanti delle scuole cattoliche della didattica personalizzata, e nel nostro istituto in particolare ha tenuto anche un percorso di formazione per insegnanti. Ecco, adesso entreremo poi nel capire esattamente cosa vuol dire personalizzata. Voi state intraprendendo appunto questo percorso come insegnanti, come docenti, nel contesto appunto di quel, tu dicevi, è scuola. Punto, perché siamo nell'ambito del sistema pubblico di istruzione garantito dalla legge 62 del 2000, garantito ma non finanziato, lo diciamo, sì. Lo diciamo sempre per quanto possa giuridicamente garantito ma non adeguatamente sostenuto dalle finanze. Nel contesto di un sistema pubblico a fare tutti i mestieri si impara facendoli, evidentemente, ma forse a fare l'insegnante per fare l'insegnante si fanno gli esami di Stato, i concorsi, i concorsoni e tutto quello che c'è anche in questo periodo, manca forse ancora, ma parlo di struttura generale, l'aspetto didattico. Cioè uno vuole andare a fare l'insegnante, dimostra di sapere delle cose, ma per essere capace, in grado di insegnare, di essere poi effettivamente capace di trasmettere poi questi contenuti, manca ancora qualcosa. Parlo di sistema generale, quindi non solo ma di scuola cattolica. Ma il sistema generale cerca di ovviare a questo. Penso, io ho decenni di esperienza, sono della vecchia generazione, appartengo al millennio scorso come formazione, e effettivamente sia il percorso universitario sia il percorso abilitante si è giocato sui contenuti. Per diventare insegnante bisognava sapere il programma. Oggi è troppo poco questo. All'insegnante viene richiesta anche la metodologia, cioè il saper trasmettere i contenuti per far crescere i ragazzi in competenze, non solo in conoscenze. Quindi la scuola è cambiata molto in questo senso, e anche il sistema di selezione degli insegnanti sta guardando in questa direzione. Per esempio adesso l'abilitazione non viene più concessa solo tramite concorso, prova scritta e orale, ma attraverso il tirocinio. Il TFA è la nuova modalità di selezione e di reperimento degli insegnanti. Il TFA richiede che ci sia un tirocinio formativo, cioè che l'insegnante, prima di avere l'abilitazione all'insegnamento, abbia fatto un'esperienza medio-lunga di lavoro in classe sotto la guida di un tutor. Quindi si sta andando in quella direzione. Non ci sono però ancora indicazioni precise di dire la metodologia da privilegiare o altre cose. Si lascia alla discrezionalità del tutor indicare le strade al tirocinante. Però è già un passo importante, un po' su quello che viene fatto per esempio in Europa. Io prendo l'esempio in Germania. In Germania un insegnante, quando ha ottenuto il titolo, prima che gli venga assegnato l'incarico, deve fare un anno di tirocinio. Ma un anno di tirocinio più pesante di quello che fanno i nostri insegnanti, cioè gli viene affidata veramente la classe, deve gestire la classe per un anno sotto la tutela di un tutor. Ecco, si sta andando in quella direzione perché si vede che il mestiere dell'insegnante richiede proprio una competenza che non è solo quella teorica delle conoscenze. Facendo un paragone automobilistico, no? In tanti prendono la patente, ma quelli che sanno guidare bene sono pochi. E poi sappiamo che impariamo a guidare mentre si guida, certo. E continuando a guidare, perché appena presa la patente si hanno tutte le conoscenze, ma ecco, io per esempio non so se riuscirei a passare l'esame di teoria, però so che guido meglio di 30 anni fa sicuramente. Ecco, allora facciamo un po' di pausa e poi torniamo per entrare nello specifico appunto della didattica personalizzata che il professor Contessotto ci ha introdotto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi perché farei del male solo e ancora a me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un quadro che dentro me ricopre una parete bianca, un po' anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora me. Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola col dirigente dell'Istituto Madonna del Grappa di Treviso, professor Francisconte Sotto. Ci siamo reintrodotti sul lavoro del coordinamento delle scuole cattoliche delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto con la carta programmatica che indica i principi di fondo, le finalità e anche la metodologia. Attenzione alle persone, e gli insegnanti cercano appunto con la formazione che poi fanno permanente di applicare una didattica personalizzata. E qui entriamo subito e facciamo subito la distinzione: personalizzata non vuol dire individuale, o vuol dire anche questo? Cerchiamo di spiegare. Allora, vediamo la differenza dal punto di vista tecnico-burocratico, ecco, perché quella è sostanziale. Per didattica individualizzata si intende la didattica che viene applicata a ragazzi che si trovano in particolari difficoltà e serve per ottenere il raggiungimento di livelli minimi di competenze anche in ragazzi che manifestano appunto particolari difficoltà, e passa attraverso tutta una serie di passaggi di tipo anche burocratico, per esempio la stesura di un piano individualizzato da concordare in consiglio di classe. La didattica personalizzata invece punta l'attenzione sulla persona, cioè sviluppa le potenzialità della persona indipendentemente che questa persona abbia delle difficoltà o non abbia delle difficoltà, ma cerca di sviluppare tutte le potenzialità che la persona ha. E quindi non è fatta solo per raggiungere i livelli minimi in chi ha difficoltà, ma per poter raggiungere i livelli alti in chi ha le possibilità di raggiungerli. Con tutte le sue potenzialità, le sue caratteristiche. Le sue caratteristiche, perché è, diciamo, una visione diversa dell'insegnamento. L'insegnamento finora, ma insomma è cambiato parecchio negli ultimi anni, ma nella visione tradizionale è questa, cioè l'insegnante spiega a tutta la classe come se la classe fosse un corpo omogeneo. Spiega, fornisce gli strumenti, alla fine misura chi ha più, chi ha meno, eccetera. La visione invece della didattica personalizzata è quella: ho di fronte sì una classe, ma la classe è fatta di tante persone che hanno anche esigenze diverse. Spetta a me insegnante, nei limiti delle mie possibilità, perché miracoli non si possono fare, ma cercare di vedere quali sono le potenzialità di ciascuno da sviluppare per rendere la classe molto più vivace. Questo nasce da una serie di considerazioni che nascono anche fuori della scuola. Per esempio, le neuroscienze hanno dimostrato che si ottiene molto di più con la valorizzazione che non con la costrizione. Io sono cresciuto con prima il dovere e dopo il piacere, con il rimprovero di fronte, con la paura della sanzione. Era il sistema educativo di qualche decennio fa, di un paio di generazioni fa ormai, che era basato sul fatto che tutti hanno il dovere di fare, se non lo fai vieni castigato. La paura portava a raddrizzare le schiene e andare avanti. Questo ha dei pregi e dei difetti, ma era così, ecco. Oggi invece l'attenzione è portata più sul fatto che siamo di fronte a persone e la relazione deve valorizzare le persone. E allora dicevo, per esempio, le neuroscienze hanno dimostrato che si proprio misurato che si ottiene con l'incoraggiamento, si ottiene 52 volte quello che si ottiene con un rimprovero. Non due volte, non il si doppio. Si vogliono 52 rimproveri per ottenere quello che si ottiene con un incoraggiamento. Perché? Perché la persona si sente valorizzata. Poi si constata in tutti gli ambienti che la motivazione e la serenità della relazione rendono molto di più. Cioè uno che lavora sereno e lavora in un ambiente accogliente produce molto di più. Ecco, trasferendo queste conoscenze di carattere scientifico, di carattere sociale, di carattere pedagogico all'interno del gruppo scuola, si cerca appunto di portare questo in campo della didattica. E allora l'insegnante ha sì di fronte una classe, insegna alla classe, verifica la classe, con l'attenzione però di calibrare, di sollecitare aspetti diversi per ciascun alunno, secondo le caratteristiche di ciascun alunno. E questo non solo nella fase delle verifiche, dei compiti in classe, chiaramente quelli sono poi i momenti più critici soprattutto per gli alunni, ma proprio nel momento in cui si spiega per capire, spieghi un passaggio di un'equazione di matematica piuttosto che di un periodo storico, verificare se tutti e ciascuno, tutti nel loro insieme e poi ciascuno hanno capito la stessa cosa. Hanno capito, per cui se qualcuno ha difficoltà cerco di capire dove sta la difficoltà. Dopo naturalmente, avendo la classe per tempo, riesco a conoscere tutti i miei alunni, per cui so in partenza che Pierino avrà quel tipo di difficoltà, che Giovanni avrà quelle altre potenzialità. Ma non è solo il guardare alle difficoltà, ma anche a guardare alle potenzialità. Per cui se io so o percepisco che un alunno mi può dare di più, lo sollecito in maniera che mi possa dare di più. Questo è tutto un lavoro che viene calibrato in fase di programmazione, in fase di spiegazione, ma anche in fase di pretendere da parte degli alunni prestazioni di tipo diverso. Per cui con qualcuno mi accontento che arrivi a un certo livello, con qualcun altro non mi accontento e pretendo che faccia di più perché può fare di più. Ma pretendo non perché lo costringo, ma perché lui si sente valorizzato, per cui lo fa con una motivazione superiore. Ti faccio una domanda prima della seconda pausa. Nelle differenze tra vecchie e nuove generazioni e proprio nello stare in classe, la mia, la tua, insomma, generazione di alunni era quella che doveva stare buono e zitto. Adesso sicuramente sono più vivaci, ma forse sono anche più partecipi della lezione, nel senso che uno può anche permettersi, non solo per una maggiore libertà, ma di intervenire maggiormente, insomma. Non solo dovrebbe permettersi, ma sarebbe auspicabile. Ecco, cioè la lezione dovrebbe essere più partecipata. Questo non vuol dire che ci deve essere sempre discussione, eccetera. Ci sono dei momenti in cui l'insegnante fa anche parti di lezione in maniera frontale, cioè lui parla e la classe ascolta. Però l'importante è che non si esaurisca tutto qua, che ci sia sempre un momento di scambio, di sollecitazione. E allora, ne parliamo tra pochissimo, ancora facciamo anche qualche esempio di vita vissuta di classe, didattica personalizzata, tra poco. Dal mondo della scuola. In my heart, you light my way. Ultima parte di questa puntata pasquale, ormai dal mondo della scuola, col professor Contessotto. Stiamo parlando di didattica personalizzata, che abbiamo capito non è quella, non è tanto individualistica, ma è un tipo di didattica, di modo di insegnare, che cerca di far emergere le potenzialità, le capacità, le caratteristiche diverse di ciascuna persona, di ciascun alunno. Qualche esempio di vita vissuta? Beh, qualche esempio. Per esempio, la didattica personalizzata lavora molto sulla motivazione. Dicevamo prima, vale più incoraggiamento che non... Che 52 rimproveri. 52 rimproveri. Dopo, non so come abbiano fatto a misurare i 52, ma comunque dicono che sia così. Comunque vale più l'incoraggiamento del rimprovero. Sto pensando, per esempio, che il momento della verifica è sempre un momento cruciale, perché c'è la paura della verifica, la paura poi di aver sbagliato e dopo come farò a riparare, a rimediare, eccetera. Ecco, per esempio, abbiamo avuto esempi negli scambi tra insegnanti di qualcuno che ha provato a togliere la paura della prestazione, partendo dall'idea che a ciascuno è concesso di sbagliare, anche all'insegnante è concesso di sbagliare, a tutti. Solo che bisogna però far leva sul fatto che si può sbagliare una volta, te lo concedo, ma questo deve essere solo uno stimolo per fare di meglio. Ecco, per esempio, un insegnante che ha deciso di, non so se normalmente si fanno 3 verifiche scritte di matematica nel quadrimestre, di farne una in più e di non tener conto del voto più basso di ciascuno. Quindi non annullare, come le gare olimpiche, come, no? Le gare, si elimina olimpico, il voto, sì, più basso e il voto più alto, solo che eliminare solo il voto più basso, non quello più alto. Cioè, è dire al ragazzo: guarda, se avevi la giornata storta, lo accetto, mi va bene. Che non è l'annullare il compito. Per esempio, più di qualche volta è successo, succedeva anche a noi, che un compito andava particolarmente male per tutti, veniva annullato quel compito, ma veniva annullato per chi aveva fatto male, ma anche per quei pochi che avevano fatto bene. Sì. Invece qui questo insegnante toglie il voto più basso di ciascuno. Questo è un dare fiducia, dire: vabbè, ti concedo che un compito ti sia andato male. Questo insegnante riferisce che questo ha portato intanto i ragazzi a non stare assenti alle verifiche, perché... Che è un'altra cattiva abitudine, sì, sì. Perché chi sta assente a una verifica si perde questa opportunità, perché... Ha un bonus in meno da spendere. Ma poi anche viene tolta la paura, l'ansia da prestazione, perché se un compito va male, anche se va malissimo, vabbè, quello sarà il compito annullato, non casca il mondo. Quindi anche questo è un esempio. Oppure un insegnante di inglese che vedeva la difficoltà in un ragazzino a memorizzare i verbi o le parole, ecco, che ha costruito una filastrocca, l'ha fatta incidere sul registrato, e questo ragazzino, andando e tornando da scuola, si ascolta la filastrocca e in questa maniera impara i verbi, impara le parole, eccetera. Oppure un ragazzo che è particolarmente sintetico in italiano, non riesce a fare i compiti lunghi, l'insegnante gli affida il compito di sintetizzare i concetti fondamentali di una lezione, per cui viene valorizzato per la sua capacità di sintesi. È chiaro che questo comporta, come si dice, uno sguardo attento da parte dell'insegnante, perché non è uno standard che viene fatto per tutti. Non so, per dire, questo di fare sintesi, se lo si assegna a un ragazzino che non è capace di sintesi, è un condannarlo, certo. Non è un valorizzarlo. Mm-hmm. Ecco, è un po' tutto un gioco di calibrare. Ecco, l'esempio che viene portato è quello del direttore d'orchestra. Il bravo direttore d'orchestra non è solo quello che fa applicare lo spartito rigidamente, ma è quello che sa valorizzare le capacità dei singoli professori d'orchestra per dare più colore, per dare più spessore, per dare più vita all'esecuzione stessa. Ecco, è un gioco di equilibrio in questo senso. E immagino che soprattutto il primo periodo di conoscenza tra la classe e gli insegnanti, quindi il primo anno fondamentalmente, sia determinante, o comunque è un periodo di conoscenza reciproca. È un periodo di conoscenza reciproca, è un periodo anche in cui si si buttano via le maschere, cioè anche l'insegnante deve giocarsi la propria persona nel rapporto, perché il rapporto deve essere sincero, deve essere aperto. Sicuramente il primo periodo, quindi il primo anno o anche i primi mesi di ciascun anno, sono particolarmente importanti e sono periodo di studio, però è come in una relazione tra persone, la relazione cresce con il tempo, per cui non c'è un periodo di conoscenza e poi si passa alla fase operativa, è un conoscersi e lavorare insieme continuamente. Considerando che poi anche le persone, soprattutto gli adolescenti a quell'età, cambiano, non dico nel corso degli anni, ma nel corso delle settimane. Sì, anche nel corso del giorno, qualche volta. Ecco, questo naturalmente è un cammino che abbiamo intrapreso. Sulla didattica personalizzata penso non ci sia mai un punto di arrivo. È una modalità, un modo di porsi nei confronti della classe. Quest'anno il coordinamento scuole cattoliche ha fatto un primo incontro in cui un esperto, il professor Michele Visentin di Padova, ha portato la sua esperienza ed ha illustrato a grandi linee cosa può essere, che cosa può comportare la didattica personalizzata, ed è stato un incontro che tutti hanno definito entusiasmante, perché ha aperto una modalità, per carità non era un'assoluta novità, perché un bravo insegnante sempre cerca di valorizzare, però questo diventa un sistema di operare, un sistema di lavorare. E poi c'è stato già un primo momento di scambio di esperienze tra scuole diverse, perché la didattica personalizzata cresce soprattutto nello scambio di esperienze, per cui sentendo quello che ha fatto il collega, le difficoltà o i successi che ha ottenuto, uno prende un po' le misure e cerca di applicare anche nella sua esperienza quello che hanno fatto altri. E noi speriamo che questa cosa prenda sempre più piede, insomma, per il bene della scuola in generale, degli insegnanti, che lavorino in modo più proficuo e soddisfacente, e per gli alunni che frequentano le scuole. Noi con questa puntata ci fermiamo qui, ringraziamo il preside Francesco Tessotto, buona Pasqua. Grazie altrettanto. Il mondo della scuola torna fra 7 giorni puntualmente da Edi Daici Regia e Mirko Cavallini Studio. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.